Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Tra meno di due ore a Port Elizabeth si gioca dunque il primo quarto di finale Olanda-Brasile. E con tutto il rispetto per Uruguay e Ghana, che il loro quarto lo giocheranno stasera, insomma, chi vince tra brasiliani e olandesi va con ogni probabilità direttamente in finale. Una sfida che stamane Alessandro Costacurta ha disegnato sul Sole 24 Ore, sottolineando sia i punti di contatto tra Olanda e Brasile che le loro differenze. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Senti, per esempio, ho letto con attenzione perché ho imparato in questi giorni, sì, ho imparato a seguire, insomma, a cercare di capire qualcosa in più. Per esempio, quei due centrocampisti centrali, che sia nel Brasile sia nell'Olanda, sono in realtà principalmente dei protettori difensivi. Sì. No, vedendo le squadre, avendo quel tipo di attaccanti, credo che sia stata proprio una scelta ponderata a lungo, anche perché è soggetta a critica da parte dei media, insomma, e dei tifosi, perché sì, gli allenatori hanno scelto da una parte Gilberto Silva e Melo, che sono, credo, prettamente distruttori di gioco, ma gli stessi olandesi, che sono secondo me un pochino più bravi tecnicamente, fanno principalmente da diga davanti alla difesa, quindi era proprio per, credo che ci fosse la necessità da parte dell'allenatore di mettere quei due centrocampisti per aiutare quei fantastici attaccanti che hanno davanti. Che insomma. Hanno. E tra l'altro questo mi ha colpito, perché tu dici il Brasile dietro Fabiano utilizza due giocatori veloci ma che non hanno movimenti predefiniti e sono molto imprevedibili, sì, eccetera. Però il vero entusiasmo tu lo hai riservato, perché tu non sei uno che esagera con gli aggettivi. Allora se scrivi se scrivi una mezza punta fantastica come Snyder e poi scrivi Robben è praticamente immarcabile e per me secondo solo a Messi e Ronaldo, beh, insomma, non sono due complimenti da poco, eh. No, anche perché per quello che hanno dimostrato durante l'anno, credo che le performance ottenute durante l'anno servano comunque a confermare. E vedo Snyder, ho seguito benissimo Snyder, perché sì, seguivo l'Inter, ed è stato un giocatore a mio parere sorprendente. È chiaro che io conoscevo le abilità tecniche, però l'aggressività, la determinazione che mette nella fase difensiva era a me sconosciuta. Sì. Io vedo che nel momento in cui i difensori avversari si passano la palla, il primo che va a pressarli con una accelerazione degna di Bolt è proprio lui. E questo sinceramente mi sorprende. E Robben è un giocatore che, insomma, noi purtroppo l'abbiamo subito per il gol alla Fiorentina, ma ha fatto gol anche al Manchester, lo sta dimostrando. Sì. E questo è sempre il mio parere, ma io vedo davanti a Messi e Ronaldo è quello che è più determinante in una squadra. Immarcabile, scrivi, in effetti lui fa sempre io mi ricordo, per ragioni anagrafiche, mi ricordo che era bambino, da ragazzino, insomma, impazzivo giustamente, credo, per Garrincha, no? Garrincha, sì, a parte la poliomielite che insomma, gli aveva accorciato sta gamba, che forse quindi, insomma, ogni tanto dalle sventure nascono anche delle cose, insomma, forse gli favoriva questo tipo di finta, però faceva sempre la stessa, nel suo caso andava sempre verso l'esterno perché era, sì, destro, giocando a destra, sì, ecco, questo fa sempre la stessa finta e in realtà rientra sempre sul sinistro, però lo pigliano mai, e la storia di quest'anno gli è dimostrarlo. Io ho cercato di mangiare difensore, sì, il problema è che lui molte volte è vero che va verso sinistra, però è molto bravo anche andare verso destra, sì, quindi nel momento in cui tu te l'aspetti all'altra parte arriva al raddoppio. Lui se la butta e l'ha dimostrato in finale contro l'Inter. Un paio di volte c'era stato il raddoppio di Cambiasso e di Samuel. Lui è andato sull'esterno, esatto, l'ha buttata con una velocità incredibile. Senti, corrisponde il fatto che in linea di massima chi vince di queste due va in finale? Sì, credo di sì. Io le vedo anche, tra l'altro, organizzate queste due squadre. Quindi hanno un grossissimo talento tecnico, hanno un grossissimo talento atletico e sono anche organizzate. probabilmente proprio per quello, forse adesso la butto lì, non vedremo una grossa partita, sì, anche se ci sono dei giocatori molto tecnici e molto dotati di talento, però io credo che essendo organizzate sia anche forse difficile, è sempre stato così nelle partite tra squadre organizzate. Non ti chiedo chi vince, perché tra un po' ti tocca dirlo a Sky, no, l'impressione, quindi sì, no la mia io credo che vinca il Brasile, soprattutto perché è molto forte nelle palle inattive, sì, e credo che forse la differenza sarà quella lì, come è stato con Juan l'altra sera. Senti, un altro spunto prima di concludere questa conversazione e di lasciarti ai tuoi impegni televisivi, tra le tue rubriche di questi giorni, quella che mi sono messo da parte è una che era titolata anche bene, tra l'altro, chi ha classe lascia il 4-4-2, e cioè, sì, di nuovo anche lì il concetto di più le squadre hanno talento e più hanno, come dire, abbiurato rispetto a questo modulo che tu scrivi è quello che più dà vantaggi al collettivo, all'organizzazione, eccetera eccetera, ma però dici anche generalmente le squadre con una non eccessa qualità tecnica ricorrono a sto modulo e alzano il livello di gioco grazie alla coralità. Esempi perfetti sono Sampdoria e Chievo, quindi è il momento di andare avanti, ci ha detto questo mondiale, forse. Credo di sì. Io vedo le squadre che sono arrivate in fondo, è vero che sono le squadre che hanno più talento, ma forse anche quelle che si preoccupano meno sotto un certo punto di vista di legare sotto un certo i giocatori, sì, tecnici, sì, perché sanno che probabilmente non hanno quella determinazione feroce che sinceramente Snyder ha. Ecco, sì, gli Snyder con quel talento, con quella determinazione, è molto molto difficile che ci siano. Il 4-4-2 permette, attraverso il fatto di essere molto corti e molto stretti, un continuo aiuto tra i giocatori. Sì. E quindi quando tu hai gli spazi stretti è più probabile che ti aiuti, è più probabile che non passino gli altri. Certo. Tu invece, che hai giocatori di talento, devi cercare in tutte le maniere di allargare gli spazi perché vengono fuori le qualità tecniche. Credo che sia questo il discorso. Il discorso ed è quello che stanno facendo per l'appunto Brasile, Olanda, Argentina, sì, che davanti piazzano magari i due medianacci o il medianaccio, ma poi davanti, sì, ne hanno almeno tre, se non quattro, che fanno gioco, insomma. Che... Io ho cercato di spiegare quello ed è quello che ho visto io, poi certo, naturalmente... Certo. A proposito di quello che hai visto tu, e poi chiudiamo, io fino a qui mi sono divertito più di quello che prevedevo per questo mondiale. Vale anche per te o è una sensazione mia? No, a me piace molto vedere le soluzioni tattiche, le soluzioni, i moduli di gioco. Io vedo che qua ci sono state delle novità pazzesche. Io penso al Cile, penso al Messico, penso agli stessi Stati Uniti. Io ho avuto la fortuna di stare 5 mesi, conoscevo il calcio americano e quindi vedo che ci sono tentativi di fare qualcosa di diverso, e quelle 3 squadre che ho detto, però la stessa Argentina, lo stesso Brasile, sono squadre che comunque forse non sono spettacolari come una volta. Voglio dire, una volta gli tiravano 12 volte in porta, adesso sono 2. Sì. Quindi qual è lo spettacolo? Lo spettacolo è vedere tutti gli errori visti eventualmente nelle squadre di qualificazione, ma parlo dell'Italia perché ha fatto degli errori difensivi, certo, oppure delle difese fatte bene. Io preferisco la seconda, lo so che sono uno dei pochi, insomma. Certo, è una deformazione professionale in un certo sì, senso. Sì, appunto, purtroppo forse non sono il soggetto adatto per dire questo. Prossimo appuntamento dopo le semifinali, se sei d'accordo. Molto volentieri, sempre un piacere. Grazie Alessandro. Grazie. Ciao, buon giornata. Pomeriggio. Siamo arrivati al primo intervallo di oggi. Ad altri livelli, scrive Andrea da Pinerolo, anche il buon Di Livio faceva sempre la stessa finta. Ecco, ha detto bene Andrea, con tutto rispetto per Di Livio, ad altri livelli. Stavamo parlando di Robben e soprattutto di Garrincha, credo che lo stesso Di Livio, insomma, potrebbe arrossire leggermente rispetto a questo paragone. Qualche notizia da Mondiale dintorni, per esempio che Laurent Blanc è il nuovo CT della Francia, lo ha ufficialmente comunicato il Consiglio federale al termine della sua riunione, quindi ieri Prandelli, la presentazione di Prandelli, adesso la sentiamo subito, e oggi Laurent Blanc. Invece si è dimesso il CT della Corea del Sud, nome mica facile, Uyung Mo, mi pare. Ci sono tecnici esperti e capaci in Corea, ha detto, penso di dovermi far da parte e dare loro una possibilità. Durante il mondiale ho notato che i nostri giocatori sono rimasti dietro le grandi potenze del calcio, specialmente quelle del Sud America, ma non mi sembra nemmeno un disonore per come la Corea del Sud si è comportata. Notizia appena battuta dalle agenzie, Klose, se giocherà domani contro l'Argentina, ma dovrebbe giocare, farà la 100ª presenza in nazionale, entrando in un club esclusivo di cui fanno parte leggende del calcio tedesco come Beckenbauer, Matthäus, Klinsmann, Köhler e Hasler. E oltretutto è a 50 gol in nazionale, in 99 partite per l'appunto. Domani ha anche la possibilità di incrementare il bottino, perché lui ne ha segnate 12 nella fase finale dei mondiali ed è il quinto nella storia dei cannonieri della Coppa del Mondo. Vi dicevo del primo giorno di scuola di Prandelli come commissario tecnico, è successo ieri, più o meno a quest'ora. Ieri non abbiamo fatto in tempo a darvi conto dei passaggi principali del suo, come dire, decalogo di partenza. Adesso ne sentiamo alcuni frammenti, cominciando da questo che riguarda la sua scelta di accettare il ruolo di CT. Per quanto riguarda la scelta, sono molto sincero, non ho mai pensato alla nazionale, finché quel lunedì mattina il presidente Abete mi fece quella chiamata, ma anche qualche giorno prima non ci avevo assolutamente pensato. Molto probabilmente sono in questa posizione perché molti altri miei colleghi molto più blasonati e vincenti hanno una panchina, hanno un contratto, quindi forse ero una delle poche persone libere o quantomeno non vincolanti, e quindi ho accettato proprio in un secondo, perché non si può dire nazionale, perché mi sento italiano, perché ho voglia comunque di confrontarmi con una realtà nazionale, perché sono sicuramente ambizioso, ma non metto sul piatto della bilancia tanti altri valori. Il rapporto con il presidente, da subito ho percepito che ci può essere un rapporto basato sulla stima, sul rispetto, e quindi non ho avuto nessun tipo di dubbio e ho pensato esclusivamente alle cose positive. E questo è il primo dei frammenti significativi che vale la pena di ascoltare di Cesare Prandelli. Li alternerei ai vostri interventi in diretta, anche perché oggi con gli SMS siamo conciati abbastanza male, abbiamo un problema tecnico, per il momento sono bloccati, sicché sospendete magari l'invio degli SMS fino a nuovo ordine. C'è in linea Angelo da Como, buongiorno. Pronto? Angelo, dica, buongiorno. No, ci sono Andrea da Como. Andrea, chiedo scusa. Niente. Salve, Garattini. Ascolti, io mi rifaccio alla sua provocazione, tra virgolette, di ieri pomeriggio, quando diceva che probabilmente l'Italia del 2006 non avrebbe vinto questo mondiale. Mm-hmm. Ma l'Italia del 2006 ha avuto molta fortuna. Entrando nell'utopia così, io direi che l'Italia del 2006 si sarebbe trovata prima nel girone della Francia. Quindi probabilmente aveva la strada spianata, come avrebbe avuto la Francia se fosse arrivata prima, fino alla semifinale. E poi un'Italia del 2006 aveva la difesa che adesso in questo mondiale hanno in pochi. È vero che Brasile ha una bella difesa, però anche quella del 2006 dell'Italia non aveva nulla da che invidiare. Tutt'altro. E quindi anzi, un'Italia messa in semifinale in questo mondiale, non lo so, ecco, se non l'avrebbe vinto. Perché comunque era evidentemente una riflessione a voce alta. Intendo dire che le grandi squadre, mi pare, si siano presentate, le grandi squadre intendo le grandi tradizionali, e quindi Argentina, Brasile, Germania, c'è una Spagna in più, mi pare si siano presentate meglio, cioè che siano più forti oggi di 4 anni fa. Le faccio l'esempio della Germania: noi 4 anni fa abbiamo l'unica vera grande partita che l'Italia giocò in Germania, quella per cui meritò il titolo, non fu certamente la finale, se lei ricorda, fu la semifinale con i tedeschi, in casa loro oltretutto. Ecco, io ho l'impressione che quella Germania fosse discretamente più debole di questa, non è d'accordo? Sì, no, senza dubbio. Da lì nasceva il ragionamento, no? Punto che poi la lascio, che sottolineo io, è che l'Italia è la classica squadra che quando incontri in semifinale, se è messa bene come lo era nel 2006, nonostante un attacco un po' scarso, è la classica squadra che può battere chiunque. Non c'è. Su questo non c'è nessun dubbio, infatti non era un teorema mio, era una riflessione a voce alta. Però insomma io credo che di squadre scarse come quella che a un certo punto, per esempio nei quarti, è come se oggi appunto andasse in scena Italia-Ucraina. Beh, insomma, aver l'Ucraina nei quarti di finale è indubbiamente una bella botta di fortuna. Oggi mi sembra di non vedere Ucraina in giro tra le otto passate. Potrebbe essere il Paraguay, ma è più tosta, è già assai più tosto il Paraguay, e l'abbiamo visto anche giocandoci contro, è più duttile, ha fatto una partita difensiva quasi perfetta con l'Italia e poi quando ha dovuto vincere ha vinto, è più ricca in attacco, non lo so, ho la sensazione che sarebbe stata più dura, ma tanto non è per l'appunto, no? Una riflessione a voce alta e niente di più. Torniamo a Prandelli. Allora, un paio di frammenti, uno dopo l'altro. Cominciamo da quello sull'utilizzo degli extracomunitari. Per quanto riguarda i giocatori extracomunitari, si torna al discorso della meritocrazia. Se hanno la cittadinanza italiana e giocano benissimo, non vedo perché non si possa convocarli. E questa è indubbiamente un'apertura, non inedita, per carità. Non dimentichiamo che Lippi ha inseguito per mesi a Mauri e poi si è arreso soltanto per limiti tecnici o di forma, comunque, di a Mauri, non certamente per questioni di principio. Nel futuro azzurro c'è anche, ovviamente, che non si butta via niente, tantomeno quello che rimane, se non il primo portiere del mondo, certamente uno dei primi tre o quattro. Sentiamo su Buffon. Mi auguro veramente che possa essere un riferimento per tutti noi, mi auguro veramente di poter dargli la fascia da capitano ai prossimi europei. Questo spirito, questa voglia di esserci anche in un momento particolare, mi auguro veramente che questo messaggio che ha mandato possa essere recepito in maniera giusta da parte non soltanto dei giocatori ma anche del nostro ambiente. E questo era il messaggio per Buffon. Gaetano è in linea da Milano, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Senta, io ieri sera ho avuto la fortuna di assistere a tutta la conferenza stampa di Prandelli con Abete sulla Rai, diciamo quello che è. E le posso dire che due cose mi hanno colpito. Io sono un vecchio tifoso, e una è quella che quando un giornalista, un suo collega, le ha chiesto a chi si ispira come CT della nazionale che è già passato, lui non ha avuto esitazione, ha detto Enzo Berzot. Un attimino solo, dottore. No, mi dica. No, volevo dire che glielo faccio risentire tra un istante, perché avevo proprio isolato quel frammento e volevo finire con quello, perché è sembrato anche a me il riferimento più più significativo e d'altra parte, come dire, aveva appena parlato di extracomunitari, aveva appena parlato di programmi futuri eccetera, ma ha voluto sottolineare questo ancoraggio con una persona dello spessore di Berzot, quindi ha colpito anche me e tra un po' glielo rifaccio sentire. Dottore, scusi, è un'altra cosa che ammiro in quest'uomo, e quando l'hanno chiesto ancora i suoi colleghi di chi è la nazionale? La nazionale ha detto dei tifosi, perché sono loro che devono tifare e devono essere attaccati, sì, alla nazionale. Lì ha dimostrato di non essere un presuntuoso, un presuntuoso, uno che ha preso la nazionale, che secondo me, lo dico spassionatamente, ha portato questi uomini del Vecchi, perché era una questione, secondo me, di sponsor. Lasciando stare questo, mentre sulla prima frase sono completamente d'accordo con lei, diciamo che nel secondo una spruzzatella di demagogia, dai, non guasta mai. Sentiamolo comunque questo riferimento a Enzo Berzot. Per quanto riguarda un pensiero al CT, io ho comunque una memoria storica dell'82, quindi Enzo Berzot è stato ed è sarà comunque per me un riferimento straordinario, perché in quella nazionale c'erano molti miei compagni di squadra. Poi mi è piaciuto molto il fatto che nel momento che ha deciso di staccare con la nazionale, ha staccato veramente, quindi grandi complimenti a Berzot. Anche Lippi staccherebbe volentieri con la nazionale, il problema è che lo stanno braccando, e abbiamo letto già ieri e ieri l'altro di piccole disavventure ambientali, diciamo, per l'ex commissario tecnico che sta girando le isole più vicine a lui con la sua barca, e insomma, però l'accoglienza del pubblico non è mai stato granché. L'ultima disavventura mi pare sia di stamane, una troupe di Mediaset che insomma Lippi ha cacciato discretamente in malo modo. C'è Alessandro in linea dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, volevo dire due cose. Ho ascoltato attentamente prima il suo colloquio con Costa Curta e devo dire che, ripensando ai valori della nazionale italiana che è andata in Sudafrica e paragonandola a queste due squadre che stasera faranno il quarto di finale, mi sono sentito male, pensando a un duello magari sulla nostra fascia sinistra fra Pepe, con tutto il rispetto, e Robben. Ho capito che abbiamo ottenuto quello che meritavamo, cioè nel senso letterale della parola, cioè che avevamo una squadra con pochissima qualità, o per colpa dell'allenatore, per colpa del campionato, per colpa di chi non lo so, ma insomma siamo usciti quando dovevamo uscire. La seconda cosa, se permette, io abito a Firenze, anche se simpatizzo per l'Inter, e Prandelli l'ho seguito molto, è una grandissima persona, io credo anche un grandissimo allenatore. Non so però se sia la persona giusta al posto giusto, perché almeno qui a Firenze ha dimostrato di essere un grande insegnante di calcio, ma non so se la nazionale ha bisogno di un insegnante o di un tipo di uomo forse un po' più di polso. Non lo so neanche. È una sensazione. È un quesito più che legittimo, insomma, che la cui risposta scopriremo evidentemente strada facendo. Hanno ripreso a funzionare gli SMS per il pronto intervento, il pronto soccorso interno, quindi potete ricominciare a inviarli. Uno era arrivato ugualmente, dice: oltre a Thiago Motta però non ci sono fenomeni tra gli oriundi, cioè, pregherei di misurare le parole, tener giù le parole, come diceva Beppe Viola, perché se è un fenomeno Thiago Motta, allora mi domando in che categoria rientrino i Messi, non so, il Cristiano Ronaldo, gli Snyder, insomma, e tutti questi. Fabio Tavelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Come butta oggi in Sudafrica? Che intenzioni hai per queste due partite di pomeriggio e sera? Allora, butta abbastanza bene, tempo non bellissimo, ma vabbè, insomma, tranquillamente, ormai ce la facciamo, ormai resistiamo, vediamo il traguardo. Oggi mi vedrò Olanda-Brasile qui dal Broadcast Center, lo guarderò in 3D con questi occhialoni neri che ti consentono una visione davvero speciale, mentre invece Uruguay-Ghana ne andrò a vedere un'oretta qui al Soccer City, perché avendo le conduzioni serali riesco a infilarmi tra quella delle 19.30 e quella delle 23.30, siccome è abbastanza comodo arrivarci e anche a piedi riuscirò a vedere, credo, una buona oretta di partita. Hai capito. Senti, stiamo leggendo, adesso abbiamo grosso modo con l'aiuto di Billy Costa Curta prima sgrossato i temi possibili di Olanda-Brasile, della sfida del pomeriggio. Quella di stasera ovviamente passa per noi un pochino più in secondo piano, però fino a un certo punto, perché il Ghana, dopo vi leggo una lettera molto bella che è arrivata in serata a proposito di un senegalese che tifa Ghana. Insomma, l'Africa si gioca tutto stasera. Guarda, non c'è dubbio, stamattina il Citizen, che è uno dei giornali più letti qui a Johannesburg, titolava Ba Ghana, tutto attaccato con la G di Ghana maiuscolo, visto che i sudafricani sono Bafana, loro hanno titolato Ba Ghana, che mi sembra la sintesi migliore per spiegare quanto i sudafricani facciano il tifo per il Ghana, quanto la parte nera, che è una parte evidentemente anche dal punto di vista numerico importante, sia schieratissima con le Black Star, con le stelle nere del Ghana. Credo che non giocherà Yu questa sera e potrebbe giocare Muntari dal primo minuto, secondo me è una pessima notizia, perché insomma poi magari Muntari farà un partitone, però credo che la bravura di Ayew, soprattutto le sue capacità, è stata una delle risorse vere del gioco del Ghana in queste prime partite. Poi magari qualche volta esagerava, magari faceva magari un dribbling in più, però sì, bel giocatore sul serio. Senti, mi pare in compenso, se anticipiamo un qualcosina di domani, che tra tedeschi e argentini non se le stiano proprio mandando a dire, No, anzi, a me ha stupito molto, perché Schweinsteiger, che è un giocatore che in campo è uno di quelli belli duri, no? Di quelli proprio tedeschi, Poi però ha un'espressione abbastanza angelicata. Ieri in conferenza stampa sentigli dire che gli argentini sono dei provocatori, sentigli dire che gli argentini entrano in campo subito per picchiare, che gli argentini già nel tunnel vogliono mettere pressione all'arbitro. Ma intendiamoci, sono tutte cose abbastanza vere, nel senso che gli argentini hanno questa garra, questa cosa che hanno anche gli uruguaiani, e sono dei sudamericani da questo punto di vista diversi dai brasiliani, e però hanno sempre comunque una grande qualità. Però insomma, basta ricordare anche esempi del passato, tu mi insegni e certamente ricordi meglio di me come in certi anni andare a giocare in Argentina voleva dire portarsi anche la scorta, perché si faceva fatica a uscire, certo, a uscire indenni. Non è più così, evidentemente. Ti dirò anche che la risposta di Maradona, che io invece mi aspettavo potesse essere violenta, è stata una risposta perfetta. Cioè lui ha detto, bah, forse il ragazzo è nervoso, non abbiamo tempo di pensare a Schweinsteiger. Ti dirò che questa è una delle prime uscite sotto le righe di Diego Maradona, e quindi va presa come una notizia. Certo, tra l'altro anche Löw, il commissario tecnico tedesco, oggi è intervenuto, è appena arrivata questa agenzia, e mi sembra che abbia messo a posto le cose. Si vede che, insomma, secondo lui Schweinsteiger e Lahm avevano magari un tantinello esagerato. Allora lui ha detto, l'Argentina è una grandissima squadra, basterebbe vedere il valore dei giocatori che hanno in panchina e quindi non potremmo commettere alcun errore. L'Argentina gioca un calcio molto fisico al limite del consentito, ma i sudamericani sono gente adorabile, di grande cuore, ospitale, nel campo giocano questo calcio aggressivo con tutto il corpo e questo fa parte della loro mentalità, è uno dei loro punti di forza. Dicendo questo non stiamo assolutamente mancando loro di rispetto, che è bella, no? come precisazione. Guarda, cioè, come... Trovo Löw una persona meravigliosa, sì. E questa è una dichiarazione quasi da Gianni Letta, per cui certo. Veramente applausi per un Löw che ha, come dire, normalizzato ed ha medicato in maniera perfetta. Ho usato un paragone con un politico molto famoso per essere capace di mediare, certo. È sembrato il modo migliore per... Ma Löw credo davvero che sia proprio una bella persona da questo punto di vista, al di là poi della capacità di linguaggio, della capacità di esprimere concetti che sono un po' superiori al sarà una partita difficile, rispettiamo l'avversario, così. Sembra una delle belle facce di questo mondiale. Senti, mentre invece, così poi abbiamo aggiornato tutto quanto e possiamo completare questo collegamento, non è ancora iniziata la vigilia di Spagna-Paraguay. Mi sembra che tutto sia ancora abbastanza ovattato su quel fronte. Guarda, di Spagna abbiamo parlato tanto in questi giorni, soprattutto per questa cosa dei catalani e questa cosa del sindaco di Barcellona che non vuole i maxi schermo, però con tutti i colleghi... tutti i colleghi spagnoli l'hanno molto minimizzata, intanto ci hanno detto che proprio noi parliamo dopo aver riempito i giornali con i commenti di Radio Padania e quant'altro. E no, per il resto poco, ti dirò anche che gli spagnoli la considerano quasi un passaggio obbligato, o più che obbligato, obbligatorio, cioè fossimo nel salto in alto la salterebbero, no? Cioè potendo scartare una misura direbbero vabbè, saltiamo direttamente alla semifinale, che è un grande errore. Che è un grande errore, perché il Paraguay potrebbe anche tentare di allungare la partita resistendo in difesa ai supplementari, metterla sul fisico e poi vedere come va ai rigori. Cioè io aspetterei a venderla a perdere il Paraguay, anche se la Spagna è tre volte superiore alla squadra di Martino. Però la sensazione ho che gli spagnoli si considerino già in semifinale e stiano solo aspettando di sapere se dovranno misurarsi con Maradona e quindi con Leo Messi, oppure con Löw e quindi con Mesut Özil. Senti, chiudiamo Fabio con una, perché bisogna ogni tanto, giustamente, qualche ascoltatore può non conoscere certi meccanismi. Allora Mario domanda, chi paga il signor Tavelli un mese in Sudafrica? Io spero Radio 24 oppure a carico della FIGC. Facciamo un minimo di senso dell'orientamento. Ma io non so quanto mi paghi, non so quanto mi pagherà Radio 24 per questi piacevoli quarti d'ora con te. Certamente non mi paga la FIGC, mi paga un'azienda che si chiama Sky e che riceve il denaro da persone che si abbonano e che vedono le partite in televisione. Detto questo, ho fatto bene. Posto che possa interessare a qualcuno chi mi versa lo stipendio, adesso adesso lo sapete. Adesso, no, beh, insomma, ma d'altra parte, se sei l'inviato di Sky Sport 24, è ragionevole pensare, no, che funzioni così. Era un riparo. Funziona così. Di solito funziona così, certo. Poi magari c'è qualche ascoltatore che è abituato a pensare che i libri paga siano magari concepiti in maniera più estensiva oppure in forme più o meno indirette. Questo invece è assolutamente normale, ma mi piaceva che fossi tu a rispondere a questo SMS. Sì, tra l'altro se credo che valga solo per la TV pubblica, ma a me piacerebbe, a me divertirebbe tantissimo se andassero sempre i titoli di coda con i compensi, con il compenso, ma io sarei uno di quelli contenti di questa cosa, sì. Allora mi aggancio a questo, lo faccio sentire anche a te, perché non credo che li leggiate i giornali italiani o comunque li leggete in ritardo. Allora, nella rubrica di Antonio Di Polina stamane su Repubblica, Schermaglie Mondiali, scrive: Rai 2 a Stracult mostrano uno spezzone del programma Rai che accompagnava le partite ad Argentina 78, conduttore Gianni Minà, ospite Raimondo Vianello, fisso. Quelli di quella sera, cioè di questa puntata, erano Sergio Leone ed Ennio Morricone. Sul più bello entrava in studio Nadia Cassini. Da chiedere, conclude Di Polina, la macchina del tempo, altro che la moviola in campo. L'ho letta su internet. L'hai letta su internet. Ecco, tu che stando lì non hai probabilmente mai visto Notti Mondiali della Rai, adesso hai... Ma non la vedrei neanche stando lì. Ma no, non sono passati 32 anni, sono passati 32 secoli all'ingiù. Grazie a Fabio Tarelli. All'indietro, all'Indre. Grazie, presto. Chiudiamo questo collegamento. Ci sono già degli ascoltatori collegati, però ci sono anche un paio di cose. Per esempio Stefano scrive: massimo rispetto per gli extracomunitari con passaporto italiano, però un conto è Balotelli, un conto è Amauri che è l'italiano solo il passaporto. Non dovremmo almeno in nazionale privilegiare i vivai? Io credo che Prandelli, che ieri ha tenuto a ricordare con molta fierezza di essere partito dal vivaio dell'Atalanta ed aver curato per anni quel settore giovanile, sia un commissario tecnico che certamente non trascurerà i vivai e tutto quanto di buono può venire da lì. Però ci sono, e lo ricorda la Gazzetta di stamane, ci sono 22 giocatori nati all'estero che hanno i requisiti necessari per essere convocati, che sono A, il passaporto italiano, B, il non essere mai stati convocati da un'altra nazionale maggiore, indipendentemente dal fatto che possano aver giocato con un'altra nazionale a livello giovanile. Questi sono i regolamenti. E già che ci siamo, vi do tutti i nomi. Poi chiedendo un attimo di pazienza a Maurizio da Bari e a Giuliano da Treviso, che già sono collegati. Ci sono un po' di argentini: Campagnaro del Napoli, Della Fiore del Palermo, Pellegrino del Cesena, Silvestre del Catania, Bertolo del Palermo, Isco del Catania, Ledesma della Lazio, Maxi Lopez del Catania e Zarate della Lazio. Brasiliani: Julio Sergio Roma, Cribari Siena, Felipe Fiorentina, Taddei Roma, Thiago Motta Inter, Siqueira Udinese, Adailton Bologna, Amauri Juventus, Jeddah Cagliari, Reginaldo Siena, uruguaiani: Bogliassino Napoli, Gonzalo Barreto Lazio e Granoce del Chievo. Tutti questi 22 giocatori potrebbero essere convocati, hanno i requisiti per essere convocati in nazionale domattina. Un breve slittamento per la rubrica di Nicola Filippone per non prolungare l'attesa di Maurizio, che viene da Bari già da qualche tempo. Buongiorno. Salve Garanzini, grazie per la possibilità. Due brevi osservazioni. La prima è che, a giudicare dai nomi che ha letto, penso sia abbastanza evidente che non trattasi, magari parlando con rispetto, non esattamente di scarti, ma perlomeno di seconde o anche terze scelte delle altre nazionali. E non vorrei che, come in tutte le situazioni di emergenza in Italia, come questo che ci vede reduci dal mondiale, poi la soluzione fosse peggiore del danno. Certo. E poi la seconda osservazione, mi dispiace che venga dopo l'intervento dell'ottimo Tarelli, però ecco, mi scuso per l'inutilità dello sfogo, ma vorrei veramente lanciare un grido di dolore contro la TV pubblica, dal momento che ci siamo persi sia per noi poveri utenti abbonati solo al servizio pubblico, ci siamo persi sia Germania e Inghilterra che questo pomeriggio Olanda-Brasile. No, e... Olanda-Brasile credo che lo possiate vedere oggi. No, Olanda-Brasile è su Rai, certo. E viene viene trasmessa su Rai, quindi certo, certo. No. Quindi grazie per questa certo. informazione di servizio. Sia Olanda-Brasile oggi che Germania-Argentina domani alle 16 sono trasmesse, sì. Chiaramente al posto di quelle della sera, questo è ovvio. Ah, d'accordo. Però le ho salvato il pomeriggio, Maurizio. Ha visto che ha fatto sì. bene a chiamare. D'accordo, molte grazie, salve. Si immagini, Claudio Racco scrive da Parma: non scherziamo, l'Olanda è un'ottima squadra per cui nutro simpatia fin dal 74, ma questa Olanda è solo Snyder, Robben è poco più di un bluff, basterebbe riguardarsi il goffo gesto con cui si procurò l'infortunio pochi giorni prima del mondiale, questo è vero. Claudio, da Costa Curta ho sentito prima e ho letto stamane che Robben, dopo, in questo momento, dopo Messi e Cristiano Ronaldo, è il giocatore più immarcabile del mondo. Secondo lei, mi sembra di capire che è una pippa. Vediamo chi è. Secondo me ha ragione Costa Curta, fino a oggi almeno. Poi da oggi vediamo, può darsi benissimo che col Brasile faccia fatica, ma col Brasile fanno fatica in tanti. Da Treviso, Giuliano, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo un attimino vedere una mia considerazione per quanto riguarda la partita, l'ultima partita che abbiamo fatto, perché mi sembra che il primo tempo veramente eravamo in balia degli avversari, sembravamo non preparati anche atleticamente e fisicamente per la partita, poi è entrato Pirlo e sono cambiate completamente le cose. Questa è la prima considerazione che volevo condividere con lei. Poi con una settimana di ritardo, la seconda è di 4 anni di ritardo, che è questa qua, facendo un paragone con l'Italia di Lippi di 4 anni fa, e per me avevamo un Totti che era mezzo servizio e abbiamo giocato praticamente i campionati mondiali in 10 e mezzo, e secondo me un uomo lì davanti che sappia creare vuoti e riempire i pieni e ci voleva, cioè uno che sa da davanti dettare tutti i tempi della squadra, approfittando anche di un Pirlo di grandi dimensioni. Era questo un po' il quesito che volevo. Giuliano, sì, grazie. Era un ripasso, insomma. Allora, tanto vale che ci spostiamo direttamente dalle parti di Nicola Filippone e sentiamo cosa ci ha preparato nella storia dei mondiali per il 2 luglio. Sembra ieri. 2 luglio 1950. L'Italia saluta il mondiale brasiliano con una vittoria. A San Paolo gli azzurri superano il Paraguay per 2-0, ma la qualificazione era già stata compromessa dopo il KO con la Svezia nella gara d'esordio. Le reti della vittoria contro il Paraguay portano le firme del capitano, il torinista Riccardo Carapellese, e di Egisto Pandolfini della Fiorentina, al debutto assoluto in nazionale. Pandolfini andrà a segno anche 4 anni dopo ai mondiali svizzeri. Appartiene al circolo prestigioso dei calciatori italiani che hanno fatto gol in più di una fase finale. Insieme a lui ci sono Meazza, Rivera, Paolo Rossi, Altobelli, Vieri, Del Piero e Iaquinta, oltre a Roberto Baggio, unico a segnare in 3 differenti edizioni, Italia 90, USA 94 e Francia 98. Però, sempre il 2 luglio, nel 50 debutta l'Uruguay, futuro campione, a sorpresa di quell'edizione, nell'ultima partita con Brasile, e l'Uruguay debutta segnando 8 gol alla Bolivia con una doppietta di Schiaffino. Il 2 luglio 82 al Bernabeu la Germania caccia il padrone di casa della Spagna, vincendo per 2-1, Littbarski e Fischer, gol di Zamora per gli spagnoli, arbitro Casarin. E infine il 2 luglio dell'82 il Brasile batte l'Argentina 3-1 con gol di Zico, Serginho e Junior, Diaz segna il cosiddetto gol della bandiera argentino all'ultimo minuto e Maradona viene espulso. Per effetto di questo 3-1 all'Argentina, avendo l'Italia battuto l'Argentina per 2-1, al Brasile basterà pareggiare nell'ultimo incontro di questo mini girone per andare in semifinale. E tutti ricordiamo che non andò esattamente così. Vincenzo ha chiamato da Bari, buongiorno. Buongiorno, senti, innanzitutto il piacere di parlare con lei. Il futuro della nazionale con Prandelli devo dire che lo vedo con un certo ottimismo, però il capitolo Lippi e il capitolo presidente della federazione Abete non si può chiudere così facilmente. Io penso che Abete dovrebbe avere il pudore di dimettersi, che sua è stata la scelta di Lippi, sua la responsabilità principale di questo disastro. Il Corriere della Sera confronta, fa un parallelo, il fallimento di Capello e il fallimento di Lippi. Litti ha portato la nazionale italiana a essere l'ultimo posto del girone in assoluto più facile, quindi non è nemmeno confrontabile la performance dei due allenatori. Ed è sempre a dite che alcuni anni fa si ritrovò come vicepresidente quando è stato il caso Calciopoli. Quindi volevo il suo parere su questo aspetto. E non nascondiamo nemmeno il fatto che il presidente della federazione francese questo pudore l'ha avuto di mettersi. Grazie. Beh, insomma, le nefandezze che sono state commesse dai giocatori francesi e dai dirigenti francesi sono imparagonabili rispetto. L'Italia semplicemente ha giocato male ed è andata fuori. Causa anche l'errore storico di Abete di voler riprendere Lippi, questo è vero, però tra il modo inglorioso in cui è uscito l'Italia e il modo vergognoso in cui è uscita la Francia, o comunque si è distinta la Francia da questo mondiale, c'è un abisso, quindi non mi pare che si possa paragonare queste due cose. Sentite piuttosto Corrado Mecacci, che dice allora, questa mail o verrà cestinata già alle 18 di venerdì, cioè di oggi, oppure la tenete sino a domenica 11, perché io vi sto annunciando che già la finale mondiale, cioè vi sto dando lo score della finale mondiale, che sarà Argentina-Olanda 1-2, con gol di Mascherano, Kite e Robben. Caro Corrado, io adesso l'ho letta, mo da qua in avanti vediamo come cavarcela. Magari c'è qualcuno che le crede, che si fida e che se la gioca. Luigi, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io purtroppo accendo la radio solo adesso, magari avete già parlato di quello che voglio chiedere. La domanda è questa: cosa ne pensa degli arbitri che sono rimasti a quanto pare poco esperti, e se secondo lei errori arbitrali, vero grossolani, come quelli di Rosetti o nell'altra partita della Germania con l'Inghilterra, possano davvero aver compromesso, insomma, l'esperienza di un arbitro? Cioè, vale la pena mandare a casa un arbitro anziché dargli di nuovo fiducia, o è giusto quando uno commette un errore come quello di Rosetti, credo che il rimpatrio urgente non sia l'unica soluzione possibile dal mio punto di vista. Peccato che ne siano rimasti di più scarsi. Lino Paoli da Lucca, 36 anni, aveva mandato una mail un po' lunga, per la verità non faccio in tempo a leggerla tutta, ma insomma mi ha raccontato che alla messa per i poveri della comunità di Sant'Egidio a Lucca, dove serve a tavola, dove aiuta, sono numerosi in questo momento, in questo periodo, gli immigrati di origine africana che sono lì e che hanno un po' meno di lavoro ancora del solito, e insomma mi ha raccontato la storia di Bamba, che in realtà è un senegalese ma che sta facendo un grande tifo per il Ghana. E conclude questo signore, questo Lino Paoli, dice: io non seguo troppo il calcio ma non perdo mai i mondiali, e adesso forse ho capito il perché ho capito la passione di questo ragazzo africano per le squadre del suo continente. Grazie a lui, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio. A tempo di sport.